hanno questo impegno, diciamo, morale e fisico, e le mandano avanti queste croci. Altri ce ne sbattono altamente le palle, e venga, cosa vuoi ti dica? Io ti ripeto, non posso risponderti perché io sono fuori completamente dal mondo. Sì, vabbè, dai. Adesso io devo abbandonare la situazione, già ci sentiamo domani mattina, se non hai niente da fare passa, sino verso 9:30 ci dovrei essere in officina, se no già ci vediamo quando vuoi tu. Ti saluto, ti auguro un buon proseguo, buona cena, adesso sto andando a mangiare fuori, non so che la finiamo, vediamo un pochettino. Ciao a tutti, anche agli eventuali amici canali 10, tu e detti da parte mia, ciao qua. Ma questo computer è pronto? Il computer non l'ho neanche attaccato, stasera abbiamo una cosa importante da fare, già fra domani se ci riesco faccio qualcosa. Così andiamo a giocare. Buonasera a tutti. Io sto salutando comunque. Ciao Gianfra, ciao, buon tutto. Vado via, devo andare dall'altra parte. Ciao di nuovo Paolo. Ciao, ciao Robert, ci sentiamo alle prossime. Tante cose belle, beh anch'io vado a cenare, perché poi mi siero alla TV che c'è caldo, con l'aria calda che mi arriva alle cosce. E via, e mi guardo un po' di TV. La radio l'ho già fatta, abbiamo fatto un po' di prove, ho trovato quel baracchino che è veramente ottimo, quel microfono è ottimo, devo arrivi! Praticamente c'ho un Adonis che c'ha l'ingresso a due vie, uno Temo ed uno Icom. Io entro con l'ingresso Icom e poi clippato, e poi mi esce lo spezzone che è clippato. L'avevano mandato così, non capisco perché, forse era per il 706, sì, 706, quel carretto era del 706. Adesso bisogna tagliare il clip e metterci il connettore a 8 punte. E chi me lo fa? Ci vuole uno che ci veda. Casino. Un casino. C'ho il carretto che è clippato da una parte all'altra ed era del 706 MK2G. Quel carretto invece adesso mi serve clipandoci da una parte perché entra nel connettore del microfono. C'ha due attacchi, due clippati. Però poi l'uscita della radio devo andare sul 430. Devo andarci col connettore a 8. Rimarrà così, non so cosa fare. Io di certo non mi metto a pasticciare. Adesso vediamo, sento un po' qualcuno se me lo può fare. Però io non lo so fare, non ci vedo, non sono capace. Non mi vergogno a dirlo e quindi lascio stare così. Perché lì si potrebbe tagliare a metà il carretto, inserire due clip sia Icom che Kenwood e mettere due connettori d'uscita, uno Icom e uno Kenwood, oppure tutte e due Kenwood. Sarebbe un bellissimo lavoro. Oppure devo vedere, vedi, quello lo puoi vedere anche tu, se vendono il carretto della V508 dell'Adonis, vabbè questo è Avair, però è uguale all'Adonis, perfetto, uguale, preciso, spiccicato, se vendono il carretto già pronto, clippato, connettore a 8 della Kenwood. Ah, ma come tutti i miei, perché io ho tutti di AV8, ne ho tre qua. Ne ho tre, sono tutti in conformazione, uno in conformazione Motorola, che è la stessa dell'Icon, credo, gli altri due idem, quindi sono anche intercambiabili. Quello è semplice, però il problema è il carretto che vuole autopoli, non è così semplice. Ora! Eia, chi è che vuole entrare? Rubio Forti di Zazzari, buonasera! Ma Gianfranco non lo passi, ti ho sentito sotto, ciao Anto. A sboga roba, non è che... buonasera, stavo scherzando. Ciao Antonio, io stavo scherzando, buonasera, è ben ascoltato, adesso ti passo Gianfranco. No, Gianfranco, allora, la V508, che è quello flessibile, no, dell'Adonis, quel bellissimo microfono, io ne ho avuto tanti di quelli, ha dietro il connettore clippato, uno dove c'è scritto Kenwood Enter Clip, l'altro dove c'è scritto Icom Enter Clip, ok, però l'altro pezzo, quello che va alla radio, è lo stesso clippato. Io devo tagliare quello che va alla radio, perché non ho più radio con quell'ingresso lì, e mettere il connettore a 8, però penso che lo vendano già pronto, l'Adonis, questi ispettori ce li aveva già pronti, clippato, clippato, oppure clippato con l'attacco a 8, capito, sia Icom che Kenwood, proprio per la V508 e la V908 della Adonis, capito? Vai per Antonio, devo guardare, io non ne ho computer, mi serve qualcuno che guarda il computer, ma comunque li vendono, se li vendono me lo prendo. Sì, ciao Antonio, me l'ha ascoltato. Già ti puoi mettere sì con una stazioncina che va con 4 watt e l'antenna è lontana 30 metri. Quello lì, sì, anch'io infatti ho due uscite dietro quei microfoni che sono ottimi. Mi ha tolto però da tutti la spugnetta di... La spugnetta, se tu guardi, c'hanno quella spugnetta davanti alla grazza, che quella ti assorbe un po' di voce, diciamo, serve per attirla e per i soffi, però quando sei lontano è più utile fare quella cosa. Ho trovato, siccome me lo fabbrico di norma, lo modifico col cavetto lì, perché ciò sia prese, come hai detto tu, le RGI, sia prese classiche autopubbliche in Vodacom. Quindi comunque li ho modificati, però mi hanno mandato sempre in scatola il cavetto, oh, adesso mi fa venire i dubbi, a te che di che marca occorre? Sì, aspetta che rilancio l'Antonio, vai Antonio. Capa, ti volevo dire che io ho poca roba, non sto spingendo niente, cioè avevo 15-20 watt, non di più, forse anche di meno, capa, sono poca potenza. Ho detto già Franco, sto usando 4 watt, tu arrivi 9-10, lui arriva 9-20. Più in alto di te, ci vediamo con Gianfranco, con te, a te non ti vedo, però ripeto, ti ho sempre detto c'è un ottimo segnale, 9-10 arrivare qua è un ottimo segnale, così con 10 watt, 15 watt, non c'è problema. Gianfranco, a me mi serve l'Adonis, no? Tu prendi il microfono, dietro, hai visto, c'è due attacchi, uno Kenwood e uno Icom, sotto poi c'è il connettore, l'interruttore, e lo sposti nella linea Kenwood o lo sposti nella linea Icom. Io uno me ne serve, clippato dal microfono al connettore a 8, a tuara se ce l'hai qualche uno, anche corto, piccolino, non c'è problema. E se no lo devo ordinare, ma se c'è in vendita lo ordino, me lo compro, me li compro tutte e due Icom, tutte e due Kenwood, in modo che con un microfono posso usare due radio, visto che ne ho tre Kenwood, due le uso con un microfono e uno lo uso con l'MC60, capito Gianfra? Ecco, era quello che mi serviva, quindi che parte dal microfono con l'RG sarebbe il plug in play in plastica, no? Che va al microfono e esce, diciamo, per andare all'apparato come attacco Kenwood. Vediamo se regge 45, cavolo, un po' caro mi pare, questo è 12 euro, aspetta che guardo bene se corrisponde. Ma se c'è ordinamelo, faccelo mai tre soldi, ordinalo subito, sì, già ci sono, io mi ricordo che con l'Adonis, quando avevo ordinato il primo Adonis, mi avevano chiesto, vuole il cavetto clippato oppure clippato connettore a 8, Icom o Kenwood, io me l'avevo fatto mandare col connettore a 8 Kenwood, e lo usavo con il 440 allora, l'Adonis, che è un bellissimo microfono, superiore nettamente all'MC60, molto molto bello, capito? poi però avevo preso l'ICOM anche, quindi mi avevo ordinato l'altro cavetto uguale a quello però ICOM, quindi lo attaccavo nell'altro ingresso, quando dovevo usare l'ICOM mi spostavo con l'interruttore su ICOM, quando dovevo usare il cable mi spostavo con l'interruttore su cable, capito? Perché due vie e due uscite, puoi usare due radio uguali della cable oppure uno cable e uno ICOM. Adesso proprio quello che dici tu l'ho trovato. Scusa Antonio, siamo un po' ping pong gettando, facendo tennis, mi sparo il povero. Questo dice però Mike AV, che in effetti ha la regia 45, e che in Wood. Però dal sito Proxel, ma non mi dà prezzo. In che maniera è ordinabile. Riprendi Anto. Ehi, dimmi. Ti ho rilanciato il mic. Kappa, vai. Hola, chicos. Così va. Ma vorrebbe mi cagli un poveretto. Trovato. Marcato Vair. Per AV 908 e per AV 508, che sono gli stessi, Kenwood 8 Poli, TS2000, 850, 890, 990, 15 euro, ovviamente da Mediaglobe non è disponibile attualmente. Non mi interessa, cercare in capo al mondo, deve essere ingresso al microfono clippato, ok, Kenwood, però ricordati Kenwood, non ICOM, io ICOM non ne ho, mi serve solo uno della Kenwood e basta. Clippato dal microfono, dalla V 508 che è uguale a 908 eccetera eccetera, quindi dal microfono col clip, no? Quello che si entra tipo telefono, uscita col connettore A8 Kenwood, capito? Kenwood clippato, Kenwood uscita Kenwood per la radio, per il 430 Kenwood, però A8 alimentazione diretta. Ho guardato lì da, l'ho preso io il microfono, ma ce l'ha solo per il con questo, costa anche poco, 13 euro. Porca la miseria, e quindi andrebbe modificato. Niente. Riprendi anche tu, hai cenato, sì. Capa, no, insomma, troppo ceno e poi vado. Cantami anche canzone, va? Beh, a noi non ci canti niente. Capa, vado a karaoke, però. Disponibile. Aspetta qua, non ti muovere. RG45, 7 euro qua costa. Cavetto di programmamento, microfono AV908, AV508, Kenwood. Ce l'hanno tutti e due, quindi c'è quello. Ora. Plug, quindi per collegarla alla radio, sì, no, che hanno tutti i plug oramai, quindi due in plastica, e poi c'è questo che costa sempre 7 euro, che collega quello, il plug in plastica, la RJ, col microfono A8, costa 7 euro ed è 1,30 m. Sì, anche troppo, va bene. L'importante, dai, ordinano già, fammi staccarti, io non ho la possibilità. Visto che ci sei tu, che ci conosciamo, ordinalo. Sì, allora tu metti sul tavolo la V508, dietro c'è il connettore clippato, entra lì e poi va a collegarsi alla radio col connettore A8, quello a filettatura, giusto? Sì, dimmi la radio. 430, i connettori Kenwood sono tutti uguali, tanto prende la V508 col suo spezzone originale, prende l'alimentazione direttamente dalla radio. Allora, qua non l'ho usato, sto guardando i miei, qua non l'ho usato, questo davano in dotazione, giusto? Sì, sì, sì, quando compri il 508, io l'avevo comprato, però ti ripeto, lo usavo con l'ICOM, col 706 MK2G, non col quadribanda. E avevo il clip sempre nel connettore del microfono e poi l'uscita era clip lo stesso, ti ricordi lì com'era così? E quindi ce l'ho quel cavetto, clip, però non va bene, per poterlo modificare lo lascio stare così, può servire sempre, no? Può servire sempre per una radio ICOM, magari mi capita di comprare una radio ICOM, lo inserisco e ho già il connettore pronto, lo conservo. Mi serve l'altro, quello della Kenwood, che è praticamente clippato sul microfono, però ad attaccare alla radio è a 8 punte, filettato, capito, con la ghiera, no? Quello lì mi serve. Sei sempre il culone, eh? Ma c'è molta fortuna. No, certo, se mi dici che ce l'hai tu, passo domani a prendermelo. Guarda, ce n'è uno che sicuramente è modificabile a ICOM. Lo devo verificare però, perché io ho tutti i cusi degli apparati. Non mi costa niente aprirlo e invertire saldature. La parte più rognosa in quel caso sarebbe stato il plug, però aspetta che cerco se c'è anche il suo, perché purtroppo Kenwood non ce l'ho e quindi non lo posso provare, capito? Io controllo che tu sei un mago, te l'ho già detto, tu sei il mago, io sono il magone. Vai, io sono gomma rosa gatto. Lugariello. Io c'erato poco fa, una pizza mi sono mangiato. Una pizza e una mela, buone quelle mele, proprio buone, gustose, buone veramente. Dice una mela al giorno, io me ne mangio un chilo al giorno. Ah, poi già non è mara, no? Gappa. La matta di Nivaria. Ora. Ciao Luca. Di tutta questa roba ne vorrei avere molto di meno, perché frugando adesso ho trovato che c'ho anche un invertitore Itera che stavo cercando. Aspetta che vedo altri cavi. Se ce ne hai anche uno ICOM, che non ti serve, però te lo pago lo stesso, che è uguale a quello che non fai altro che aprire il connettore e invertire la polarità, è un'inversione. Poi magari lo provi col tester, non lo so, se vuoi tiro la radio, non ce n'è problema. Ce ne ho tre radio ICOM, capito? Va a Kenwood, quindi non c'è problema. Se non lo ordiniamo, Gianfra. Se è una cosa che si può fare, si fa. Se non lo ordiniamo, lo compro nuovo. Clippato dal 508 a ingresso della Kenwood a 8 punte, capito? Ma se va bene questo, perché lo devi comprare? Vedi tu. Tu sei il mago, ti ho detto, io rimango sempre magone. Ciao, Gianfra. Ciao. Sto sentendo con Claudio, sai, tra vecchietti. Sì, già va bene. Già va bene. Uia. Casino, ma ora non sta piovendo, ma. Allo Monte Gesù, è a Fondo Scala in Onga. Sì, ho detto su WhatsApp e poi sono a casa, a mamma. Ah, è già a Giuvincio, via. Chiaccia. E io vado, c'è un picco di modulazione in questo baracchino, bello, mi piace un sacco, il 2009 è troppo bello. Tu c'era un picco di modulazione che sull'Anus, allucinante, da Santiago 8 di portante era via a 9,20, ha detto boh. Dopo però è che ho messo la potenza alta, è una cazzata, pianterei premuto enter, quando lampeggia il display cambi dove c'è scritto H/L, che vuol dire potenza alta, potenza low, no, potenza bassa, e l'ho messo a potenza alta però è 8 watt, modulati 10, e sono messo i watt, non è mai stato toccato, è nuovo, l'aggiunto annettato, vi dico che è fenomenale. ci abbiamo recuperato un altro barracchino, come dice qualcuno. Stamattina ho preso il caffè con Pinuccetto il Moro. Già sono un giorno senza vederlo. C'è stato Pinuccetto. Tra love, ma amore. Eia, sì. No, ma la verità, quando è a Sassari mi chiama sempre. Stamattina poi ero a Sassari per commissioni, volevo andare al medico, poi ci siamo trovati verso le 10, ci abbiamo fatto un caffettino, due chiacchiere. Si ricorda sempre quando siamo andati a a trovarlo. Vabbè, bei tempi, Lugaria. Cavolo, io mi ricordo quando siamo andati io, tu e Franco a questa è l'antenna lì, mamma mia. Di poco ce ne torniamo a quattro gambe. È bello che lui non beve, quasi via l'altri. Ma ne ho combinato un concetto, un grandissimo amico. Mi ha dato un barattolo di crema di formaggio piccantina, ogni tanto facciamo tempo, mi porta una spianatina, una tazza di vino e felicità. Da parecchio che non si sente. Ma come mai non sta più entrando? Cosa entra? Non c'è nessuno al paese, c'è solo lui con questo cazzo di radio. Magari, vabbè, è sempre incasinato, c'è sempre da fare, capito? Però prima entrava, ma non lo intende nessuno, non lo sentivo, ero io la Sassari. Non è un po' difficile arrivare lì, capito? Ho detto entra, io adesso ti sento, mi sono spostato anche più in alto, infatti adesso si sta organizzando, entrerà sicuramente a fare due chiacchiere, ma non è che per caso in radio lui non ha più gana, no? Già lo so, già. Ok, dai, io vi saluto e ci sentiamo, dai. Cappa, dura giovata, andare du gaggio. Quando attacchi, ultimo segnale, però sempre detto, ultima radio, ultimo tutto. Va bene per la truppa, io sto andando con quella piccola della Kenwood, 30 watt modulati, dai, già va bene. Va benissimo, va. Ma non passaggio ne riciuto, se no vi riciuto. Io via. Bombe di gas, no? Ehi, c'è il metodo gaso di fare la guglia. In assenza di riscaldamento, qui sono mia tutti, un po' in mezzo all'anca, ovviamente dei vasi. C'è no che per la cucina stessa, non caso madornale. Immaginiamo se comincia a fare. Se va bene un cernaio, va. Ma non sono ancora uscito fuori a chiudere il cancello, perché se lasci un freddo che pira iatta, che mamma mia, come sto. E beh, Gianfranco, cosa mi dici? Io che poi vado a mangiare sereno così, che c'è una bella cecciata stanotte, calda calda. Ci sentiamo, ciao. Ciao Anto, un abbraccio, alla prossima, ciao. Ciao Anto, buona cena. Allora, questa è la situazione, c'ho questo carretto lungo che è il mese di maggio, sì, abbastanza lungo, e ne ho un altro più piccolo che ci posso mettere il blu, ce lo posso mettere io, che lungo circa sarà una ventina di centimetri, ti interessa? Alla grande, ottimo, 20 centimetri va più che bene. Aspettate che ho la misura, Senti il rumore. Senti il rumore. Cos'è? Sento la cattolica rumorosa. 40-45 centimetri. Va bene. Ok. Adesso ho un connettore. Tanto ne ho, aspetta che controllo quanti ne ho connettori, perché io li prendo, poi ti racconto una cosa, mi piglio a colpi di 10, 20, allora di connettori me ne sono avanzati 3, cioè sia maschio sia femmina, e quindi te lo do io, sono connettori un po' duri, ti avverto, entrano un po' premendo. Se ciò ti dà fastidio te le devi levigare sul fianco, sto parlando dei connettori, quelli che fanno l'apparecchio. E cioè, ma quello che va attaccato al capo? Sì, autopin, sono un po' duri da entrare e quindi magari di lì entra bene pure. Sono perduto in tutto identici a quelli dei microfoni, però in questo caso sono un po' duri, non ho capito il perché. Eventualmente le puoi scatovettare anche se ti danno fastidio, o forse sono i piedi interni che sono molto stretti, è per quello, però io li uso normalmente su tutti gli apparati. Sì, cosa vuol dire? Basta che entri, una volta che è entrato già me la futta. Quindi quello che va alla radio è a 8, della Kenwood lo devi cambiare da ICOM a Kenwood. Uno non lo so se era già del Kenwood, quindi lo devo sottoporre ad analisi. L'altro te lo costruisco, se vuole il Kenwood te lo faccio per ICOM. Lo vuoi completo di tutto, anche up, down, quelle cose lì, oppure ti basta solo microfono, PTT e alimentazione? Ma se lo devi costruire tu lascia perdere, io pensavo che c'era già pronto. Se ne hai uno pronto, clippato microfono, attacco 8, anche se della ICOM, inverti le polarità e mi dai quello, 20 cm sono più che sufficienti. Sì, almeno un connettore, cavolo, l'ho fatto anche stamani uno della ICOM, ci sarò buono a farlo, tanto sono già plugati, tra l'altro anche l'originale che è, siccome era molto lungo, quello che mi hanno dato, io l'ho tagliato in due, quello che mi avevano mandato con la V, e così ho servito due microfoni con un singolo cavo, no? Perché ci ho attaccato i connettori metallici. Questo qua era plastica come connettore. Come quello che c'ho io, plastica e plastica. L'ho fatto da una parte e dall'altra, capito? Sì, sì, originale è uno che va attaccato al microfono di quelli clippati a entrare che hanno quella lamellina che poi va a chiudere. Quello lo lasci così e dall'altra parte le metti un connettore a 8. Te lo prendo un connettore auto a fusione, poi te lo metti corretto, però l'attacco deve essere Kenwood, non ICOM, a me l'ho incoglionito, Kenwood. Chihuahua, mi ti stanno chiamando. Chihuahua, buonasera a tutti. E allora che si dice? Si dice tutto bene, tutto bene. Mi stavo parlando con Gianfranco che mi serve un aiutino per un microfono, hai capito Gianfranco? Quindi clippato Kenwood microfono, uscita connettore a 8 punte, Kenwood sempre. Sì, ma quello corto lo vuoi Kenwood o lo vuoi ICOM? Non agio radio ICOM, ti ho detto io, sempre Kenwood, uno me ne serve Gianfranco, non te me ne fai 10.000, uno, anche 20 cm, il microfono è attaccato alla radio, quindi non c'è bisogno di farlo 50 cm, 40 cm, però va bene, non lo fare lungo, però sempre Kenwood ICOM, non ne ho, solo Kenwood, clip Kenwood, uscita alla radio Kenwood, 8 punte. E tanto i pin sono quasi uguali alla Kenwood, credo che cambi solo il coso, non ti si chiama, a posto di essere a destra uno è a sinistra, mi imparo le cuffie, forse anche l'alimentazione addirittura è identica, poi controllo. Sì, mi pare l'alimentazione era uguale, dai fallo, prepararlo, se ce l'hai già pronto va bene, se no fallo, tanto non ne ho fretta, non è un problema, l'importante sia Kenwood. Ingresso microfono Kenwood, uscita per radio Kenwood, capito? No, sì, ingresso microfono Kenwood per tricatrack Kenwood, e poi anche se utilizzi l'ingresso ICOM non le fa niente. Non lo so, non lo giaccio. Io c'ho l'interruttore, sotto c'è la linea dove c'è scritto Kenwood e poi la linea dove c'è scritto ICOM, io uso quella Kenwood per non sbagliare. L'interruttore lo lascio dove c'è scritto Kenwood e uso la linea Kenwood diretta sul 430, capito? se ti serve quello clippato da una parte dall'altra, ti do quello lì, io non c'è problema. Quello lì cos'è? Indefinito. Io l'ho messo sulla linea, l'ho provato, lo posso provare, però io mi ricordo che era linea ICOM. Era linea ICOM perché io lo usavo con il 706 della ICOM, tutto qua. Però io non lo posso usare perché è clippato sia da una parte che dall'altra dove lo attacco. A naso me lo posso attaccare. Serve a pre apparecchi VHF. Tutto lì, va bene. Domani ci do un'occhiata e vediamo cosa ne esce fuori. Cosa ne fa? Che domani ci do un'occhiata e vediamo cosa riesco a toglierne fuori. Tanto sono quindi quella centrale non si usa, se non ricordo male, sono 7 saldature da fare, tanto quella in plastica rimane intatta sempre. Sì. Poi ti ripeto, se vuoi il microfono, tiro anche il microfono così lo provi direttamente. Ok, Chihuahua, riprendi dai, un altro passaggio, poi io chiudo e vado a cenare. Sì, mi sto approfittando per farlo scaldare un po'. Cioè, cosa buona che sto venendo? Oh, io sono qua, adesso mi alzo che vado a portare a Dea. Ehi. Oh, Romeo è già dormito, lugano, non so se esce a fare la pipì, se no chiudo lo sportellone, se la biglia l'ho lasciato aperto per vedere se usciva, la luce del giardino è tutto acceso, avanti chiudo tutto e se la biglia cuga. Sì, una bella cecciata c'ho stanotte, oggi, una bella cecciata, finocchietti selvatici. Calda, bella, e poi mi faccio due spianatine, una spianatina col formaggio, quello piccante, un bicchiere di vino e felicità. Catania-Trullio, ciao Eugenio! Ciao Luca! Ah, Eugenio-Trullio! Ui, se no si fa una camera a gas. Ui, mamma. E apro bacone, allora come ti cresci? Ah, cara, buoni moto la pedivella, usci, E mi guarda, non fare già di una buccia e poi andare in capo. A me piace, a me, vabbè, fino a che ti ho selvatico noi in mezzo, no? Sono mattina. Però quando è fatta, come dico io, anche se metti la pancia da cubetti in mezzo. Io mi piacciono un sacco a me i cicci, però deve essere quando il brodo è troppo chiaro o no, deve essere un po' più scuro, bello ambroso, in buona vita. Ok, è un po' come affetta turbo cazzaggio, ha detto mi adesso vado, mi siero, poi mi guardo la TV, mi ha dato una tanto per fare un po' di rumore, però quando io ho fatto che cose lui non si l'abita nessuno, perché io mentre sto facendo, capito, ho fatto le mani, capito? Sai così bisogna fare, camuffare, oppure fischiettare, e poi mentre stai fischiettando, avanti Gianfranco, vado a portare il cane, arrivo subito. Sì, io sto guardando così, di connessione. Vabbè, Clata, domani ti butto giù tutte le connessioni e quindi anche con il loop down già che c'è. Vedi tu Gianfra, te l'ho detto, tu sei un mago, io sono un magone. E quando sei pronto mi fai uno squillo, ci vediamo, ti offro un caffè e così lo uso il tuo microfono perché è veramente un peccato, è nuovo. Oggi ho trovato un po' di altro materiale, sto mettendo a posto le scatole, ho trovato un bellissimo baracchino che pensavo di averlo dato, invece me lo sono trovato tra le mani, esce veramente molto bene, quello che stavo usando stasera, capito miei? Va bene, ragazzi, io per il momento vi saluto, lascio acceso, se poi c'è qualcuno entro a farmi due chiacchiere, se no me la prendete nel QSO e mi guardo la televisione. Ok Gianfra? Ok, quindi, così siamo nel dimentico, connettore plug su microfono 508 che va ad apparato che è in Voodoo classico tipo TS2000. con tutte le connessioni di alimentazione, quindi senza batteria. Ok. E ci siamo. E l'altro invece è clippato, quello che va dentro il microfono 508. Certo, quello è già clippato, ce li ho tutti già clippati. Perfetto, allora ci è arrivato. Uscita la radio 8 con tutte le sue, con tutto il suo baravano. E così lo proviamo pure. Beh, di solito anche io sono nazionale, mi sto aspettando voi con Zareta, vai, saluti. Una vera piada, una utella. Ciao a tutti, a dopo se ci siete. Oggi qui c'è la cosa più buona. Allora voi che mangio mangiato, qui c'è il grungaggio, capito? Mi mangio quello con la Nutella. Ci sta benissimo, come l'ha preparata, colazione, cosa ride? Ma più tardi, lascio acceso, se ci siete vi faccio le chiacchiere, ciao. Dove sei entrata, già sono qua io, dai. Ciao Gio, buona cena. Vai Gianfra, quindi abbiamo chiarito. Filippo, ce l'hai già pronto, devi fare solo l'uscita alla radio, 8 pin. Sì, in realtà ne salderò 7 solo. Con la centrale, se non ricordo male, lo posso lasciare in santa pace, perché è anche rognoso quello poi. Oh, mi sta arrivando l'Australia come niente. Sono in una banda un po' alta, ma sta arrivando ta. Eh sì. C'è un po' di propagazione, stavo guardando anch'io, c'è l'altra radio, non tanta mente, c'è una buona propagazione. Va bene Gianfra, allora abbiamo chiarito tutto, fammi uno squillo quando sei pronto, ok? Se lasci tutto acceso che sei lì che stai lavorando, io mangio, poi magari ci sentiamo dopo, ok? No, oggi proprio sono troppo stanco, ho fatto un po' di roba, salature, ricatrac, quindi adesso me ne vado a guardarmi un po' di televisione, perché se non sto pagando questo abbonamento a Netflix, a Amazon, vabbè, mi dà la spedizione gratis, senza utilizzarlo, e mi dà un po' fastidio. Quando è così non lo trovi in base. Una grande rottura di balle, perché ti stanca, anche io mi metto a fare due cazzate e già mi fanno male gli occhi. Va bene, dai, vado a mangiare e ci sentiamo, fammi uno squillo quando c'hai tutto pronto, ok? Grazie per adesso Gian. Ok, ciao. Se entri io già sono qua, se c'è qualcuno, se non è tutto va bene la TV, ciao. Ok, va bene. Prova sicuro che serve a me in questi cassetti, ma non la ciappo mai. Chi cerca prova, dice. Chi cerca prova. Gappa, ci aggiorniamo più tardi. Ciao. Ok, ciao.